chiederai perché. Io apro le finestre nella notte buia, quando il cielo dorme, risponderò, lo so, che io sono figlio del vento, che mi aiuta ancora a vivere. Quando il sole sorge e le stelle.